Faccio paura come un cancro. Se vengo, chiama le guardie postali. Fottuti condor, gioco con tanti toni il gordo. Senza soldi mi viene il vomito. Tiro grossi e mi viene il vomito. Tu parli ma non sai di che mi occupo. Crude e cotta nel mio portfolio. Se la mia gang è strada allora scappa. Crack musica, trasformo pacchi in carta viola e gialla. Non parlo con una guardia. Prendo Chanel per la mia ragazza Chanel. Portai contanti oppure cambia faccia. In giro non parliamo con nessuno. Per me tu non sei niente, sei nessuno. Faccia d'angelo, anima al diavolo. Al prezzo Alan per stare calmo.